quella sua maglietta fina. Buongiorno signore, innanzitutto io dico che voi siete le mie muse. Immaginavo tutto. E noi abbiamo fatto giornata, come si dice. E quell'aria da bambina. Grazie Andrea, guardi. Non... Ci carica anche un filino di responsabilità. Perché non viene da Torino a farsi una gita domani e dopodomani qui al Salone del Risparmio? Mare, sere d'estate, il mare, i giochi, le fate. Posso, ma credo che a causa di una serie di impegni di lavoro improrogabili. Ho labbra salate, un fuoco, quattro risate. Però è come bene, se fossi rimarrà un amore platonico, sì, quello esatto, per le... sì, sì. Tra noi. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri. Rimani. Il domani, il futuro e il nostro modo di vederci in questo domani non è sempre facile immaginarlo, a volte perché proprio non riusciamo a progettarci nel lungo periodo, forse perché un po' ci piace anche vivere alla giornata, altre volte perché pensarci ci mette anche un po' in ansia, in crisi, in difficoltà, è un pensiero che non viviamo serenamente. Cara Nicoletta, queste sono riflessioni che si adattano bene sia al cuore che ai denari, che ne dici? Io sono assolutamente d'accordo con te, il futuro ci fa sempre un po' paura. Lo programmiamo, ma poi alla fine, quando dobbiamo mettere in atto delle, no, delle strategie per viverlo, visualizzarlo, ecco. Dico io, insomma, si fa un po' più di fatica. Non a caso questo è un grande tema del quale si discute a tante tavole rotonde, e in questo Salone del Risparmio che anche oggi ci ospita con la nostra postazione qui all'Università Bocconi di Milano, siamo, lo ricordiamo ancora, allo stand M12, inutile tra l'altro indicarlo perché appena si entra all'ingresso. Esattamente, siamo proprio qua all'ingresso. Nella prima parte di oggi di Cuore e Denari, anche per questa versione speciale di Investire Informati, parleremo del nostro io futuro e di come lo costruiamo proprio dal punto di vista del risparmio e degli investimenti. E a proposito di io futuro, quindi di progettualità e di come ci vediamo proiettati nel futuro, nella seconda parte della trasmissione, come sapete, l'ultimo venerdì del mese torna l'appuntamento con Salute Uomo, abbiamo preso la palla al balzo per parlare di genitorialità e farlo al maschile, quindi l'idea di diventare padri. E questo ci dà lo spunto per affrontare un grande tema, che è quello della fertilità al maschile. Ci aiuta come sempre il nostro esperto di Salute Uomo, che è diventato per voi un amico, il dottor Andrea Saloni, urologo al San Raffaele di Milano e anche andrologo, che buongiorno, già qua in postazione. Due domande per coinvolgere subito i nostri ascoltatori, dottor Saloni. La prima cosa che mi verrebbe in mente è quanti di loro abbiano avuto nel corso della loro vita appunto difficoltà nel diventare papà o anche solo nel tentativo di esaudire un desiderio di genitore. Investire informati. Diretta dal Salone del Risparmio di Milano, ci scusiamo per questo inconveniente tecnico che ci è piombato addosso, problemi di connessione internet e di corrente elettrica che si sono accumulati, però noi riprendiamo il tema che avevamo lanciato, lo faremo appunto con questo collegamento telefonico, speriamo appunto di ugualmente accontentare i nostri ascoltatori, soprattutto di fornire loro tutte le informazioni che avremmo voluto dare, diciamo, in condizioni regolari. Allora, come avete avuto modo appunto di ascoltare all'inizio, parleremo degli italiani e cercheremo di capire se conoscono il loro

di possibilità di caricare minori costi anche alla clientela. Le piattaforme tipicamente usano classi di fondi che sono particolarmente convenienti rispetto a quelle che sono vendute da altri modelli di servizio, il promotore finanziario o la filiale, scontano per intero le commissioni d'ingresso e a volte fanno anche delle promozioni. Noi siamo attualmente live con una promozione per la quale rimborsiamo il bollo, il famoso bollo Monti, sì, per gli investimenti. Questa simpatica sorpresa che ci è arrivata un paio d'anni fa che ormai, diciamo, è una costante di cui bisogna tenere una conto quando si fa l'investimento. Sì. Esatto. Quindi nella sostanza tutti questi costi riescono a essere abbattuti al massimo, contenuti e semplificati, proprio perché la modalità internet non prevede di dover remunerare uno sportello fisico delle persone, certo, che vanno sul territorio e che devono impegnarsi. Ottimo, grazie Federico Taddei, amministratore delegato di Online Sim. Lei c'era già dal 2000? No, io sono arrivato 7 anni fa. Perché sennò avrei detto lei era un po' il papà anche di Online Sim, visto che adesso parliamo lui rientra, sì. Il dottore rientra assolutamente nel sono profilo. Un papà nel nostro profilo dell'uomo a cui noi ci rivolgiamo, quindi se vuole fermarsi noi siamo molto felici. Molto. Tra grazie. L'altro sì. Nell'editoriale di questa settimana io vi rimando come sempre a visitare la pagina di Salute Uomo, dove ci sono degli editoriali che anticipano il tema che tratteremo nel nostro appuntamento. Nell'editoriale di questa settimana, Andrea, tu hai sfiorato un grande tema, un tema ingombrante, balzato agli onori della cronaca per le recenti discussioni nate intorno il diritto genitoriale per individui con orientamento sessuale omosessuale. Il tema però è soprattutto servito, a nostro avviso, per parlare di desiderio di paternità e della fertilità declinata al maschile, tema che si accantona spesso e che sempre rimane sempre un tabù. Facciamo sempre però un distinguo: infertilità, procreazione medicalmente assistita, vogliamo dare una definizione a questi termini che sì. Riprenderemo naturalmente nel corso della nostra puntata? Sì, trovo sia estremamente utile. Io mi rifaccio alle definizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che certo. È chi in realtà ci rappresenta in termini di salute. Una coppia si definì, perché si parla sempre di coppie, i bambini si fanno in due, da un punto di vista pratico una coppia si definisce infertile laddove dopo 12 mesi di rapporti non protetti, non coronati da successo, arrivi sostanzialmente a rendersi conto che un bimbo non è arrivato. In quindi questo 12 senso, mesi. 12 mesi. In questo senso però è importante riferirci a quanto si intenda per procreazione medicalmente assistita, cioè quella parte della scienza medica che si dedica ad aiutare le coppie che hanno difficoltà di tipo genitoriale a perseguire il loro desiderio di genitorialità con metodiche che la biologia ci permette di utilizzare. È molto importante questo perché laddove la coppia abbia dei motivi riconosciuti di infertilità, i 12 mesi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce o identifica come lasso di tempo utile per poter definire una coppia infertile possono essere anche ovviamente accorciati. Un uomo che sappia di base di non avere spermatozoi nel liquido seminale, gli spermatozoi sono le nostre cellule fondamentali per aver figlioli, sostanzialmente potrà rivolgersi a chi della scienza della medicina della riproduzione ha fatto il proprio mestiere, la propria arte, anche ben prima dei 12 mesi. Quindi laddove si sappia già l'esistenza di una problematica molto importante è forse bene rivolgersi. Mi fa molto piacere riferirmi a quanto il dottor Taddei ha appena detto. È bene rivolgersi a degli specialisti del settore, a chi della medicina della riproduzione, comunque vadano le cose, ha fatto la propria attività quotidiana e quindi ha un know-how, un'esperienza, dei contenuti scientifici particolarmente ben sviluppati. 800240024, aspettiamo le vostre chiamate. Se state cercando di avere un bambino, se sono già passati 12 mesi per avere il, quindi sentite che in qualche modo, no, questo progetto non ha delle difficoltà a sì. realizzarsi. Naturalmente vogliamo anche cercare di parlare di fertilità, perché è un bene che va protetto, tutelato, ci sono delle attenzioni, ci sono delle malattie che possono comprometterla, ci certo. sono, c'è uno stile di vita che può minacciarla. Quindi professor Andrea, ogni tanto ti do del tuo, ogni tanto del lei. Però Andrea, abbiamo sdoganato Andrea, possiamo dire, perché dobbiamo lasciare la linea al nostro GR, che sembra, come mi diceva qualche tempo fa una nostra amica, gli spermatozoi non sono più quelli di una volta, eh? È proprio vero, quantomeno è vero in alcune regioni intese come porzioni del mondo, dove negli ultimi 50 anni si è osservato proprio un declino qualitativo degli spermatozoi e delle caratteristiche del liquido seminale, a cui conseguono delle difficoltà maggiori. Cuore e denari. Sono incinta. In realtà poi io c'avevo una paura molto semplice, proprio da c'era una volta al West, cioè che niente sarebbe mai più stato come prima, no? Le sensazioni sono state leggere per i primi 9 mesi, anche se devo dire partecipe nel tutta la gestazione, con il rapporto col pancino e a sapere che c'è una creatura all'interno con una svariata analisi, eccetera, prassi normale e comune. 9 mesi sembravano a quel punto un tempo veramente interminabile. Essere incinta non è facile, no? Sentire che io, per me era facile e per lei no. All'inizio vomitava sempre, mi sembrava straordinario perché da lì è nata una cosa che poi la nascita di Eva ha confermato: la selvatichezza dell'essere umano. Mi ricordo che stavamo in macchina e improvvisamente aprivamo lo sportello e lei vomitava oppure uscivamo fuori e mi sembrava straordinaria questa cosa. E quindi all'inizio c'era tutta questa ansia di ma quando cresce questa pancia, quando viene. In realtà già c'era la pancia e stava dentro. Tornati insieme, abbiamo appena sentito le diverse reazioni di neopapà. Noi oggi, parlando di Io Futuro, vogliamo rivolgerci ai nostri ascoltatori che stanno facendo un progetto, stanno cercando di diventare padri. Ci siamo lasciati con evidenziando un cambiamento. Insomma, abbiamo detto gli spermatozoi non sono più quello di una volta, sembra una battuta. Sì. In realtà sono meno belli, meno atletici e meno numerosi del passato. È così? Cosa sta succedendo? È vero, se pensate solo che, rifacendoci ancora all'Organizzazione Mondiale della Sanità, in 10 anni circa i caratteri di normalità che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce appunto normali per numero, motilità e forma degli spermatozoi si sono drammaticamente ridotti. Dicevamo servono almeno 20 milioni di spermatozoi per millilitro nel 99, oggi sono solo 15. Devono muoversi in un modo atletico in una certa percentuale, oggi solo 1 su 3. Devono essere normali in più del 10%, oggi solo il 4%. Questo per definire la normalità. È proprio cambiato il percorso, cioè quello che si chiama drift. Vedi, di tipo non ci qualitativo. Sono più le mezze stagioni e non ci sono più gli spermatozoi di una volta. Non ci sono così. Più gli spermatozoi di una volta, abbiamo però qualche modo un po' più raffinato, certo, biologicamente più scientifico per poter aiutare chi il papà vuole diventare. Allora, abbiamo tantissimi messaggi, li leggeremo perché sì, la scaletta la costruiremo proprio partendo dalle vostre domande, dai vostri messaggi e dalle vostre telefonate all'800240024. Il primo messaggio, tu Andrea hai detto, dopo un anno sì, di rapporti non protetti, che la coppia, no, desidera, certo, passato l'anno la coppia potrebbe interrogarsi e pensare ad un problema di sì, fertilità. Perché dopo un anno una coppia si può definire infertile. Però hai detto poco, perché al 349-238-6666 mi dice sì, tentativi per un anno, ma quanti rapporti sessuali circa? Ah, questa è una domanda intelligentissima. Sì. La prima domanda è: abbiamo rapporti sessuali? Ci sono tantissime coppie che purtroppo arrivano all'attenzione di chi si occupa di genitorialità e di rapporti non ne hanno affatto e si rivolgono a un percorso di procreazione medicalmente assistita senza averne pure mai provato ad avere rapporti, e questo vi può lasciare sbigottite, vedo dalle vostre facce, ma in realtà succede. È cosa vera. Il primo aspetto è importantissimo. Sì. Il secondo aspetto, non c'è una regola. Si parla di ecologia della sessualità, laddove appunto si intende il fatto che esista una numerosità di rapporti in funzione di ciò che alla coppia piace. Non c'è una regola per forza di cose. È certo vero che esiste una latenza tra un rapporto e l'altro di più di 5 giorni, la scienza ci dice la qualità degli spermatozoi con cui ci confrontiamo è sicuramente meno valida. Al pari, se avessimo anche un rapporto al giorno, questo non sarebbe di detrimento alla qualità degli spermatozoi da un lato e del liquido seminale. Normalmente si dice circa un rapporto ogni 2 giorni viene ad essere considerato una buona latenza per avere un recupero degli spermatozoi. Ok, vedi? Ecco. Allora, ovviamente, perdonatemi se mi aggiungo ancora, è ovvio che questi rapporti meglio saranno gestiti in termini procreativi laddove si sia vicini al momento dell'ovulazione, più o meno a metà del ciclo, altrimenti... Ci sono anche dei momenti magici. Esattamente. Ma non delle ore magiche, come ci non sono delle leggende, forse metropolitane. Sono leggende metropolitane, probabilmente. Non esistono studi sufficientemente rigorosi in merito, ma certamente vicino al periodo dell'ovulazione è importante. Mattina, pomeriggio, sera, questa è una scienza ancora non ce la sessualità. L'ecologia la coppia della sessualità. Sostanzialmente la coppia sa. La coppia sa, e se ha dei dubbi deve rivolgersi, come insegnano gli amici, gli esperti di Deborah, non esiste il fai da te, bisogna affidarsi a mani esperte. Allora, abbiamo subito le nostre telefonate, wow! Allora, io prenderei, siccome anche questo tema ci aveva stuzzicato scorrendo prima microfoni spenti, sì, messaggi, Sorin dalla provincia di Brescia, che ci parla appunto della questione del secondo figlio. Sì. Sorin, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho 42 anni e da tempo abbiamo detto vabbè, proviamo a fare il secondo figlio, già che ci siamo, no? Però non esce niente a buon fine, diciamo. Abbiamo fatto dei esami, però pochi e niente, no? Sì. Solo che da un po' a questa parte il mio liquido seminale non è più così denso come era prima, diciamo. Io vi dico che faccio il camionista, sto più di 15 ore seduto. Seduto, certo. La prima cosa, signor Sorin, è il fatto che la sua viene definita infertilità di coppia secondaria. Secondaria vuol dire che prima ci siamo riusciti e da un tot numero di anni non riusciamo più. Se posso dare un giudizio medico, è molto importante che una coppia come la sua, dove lei ha già 42 anni, lei è un giovanotto per tutto, ma in termini riproduttivi 42 anni hanno un loro specifico significato, è molto importante che si rivolga ad un centro che si occupa di difficoltà genitoriali, cioè di difficoltà riproduttive, perché molto spesso le cause si nascondono nei meandri di ciò che non andiamo neanche ad indagare. Il fatto stesso che lei sia seduto per 15 ore consecutive può associarsi in un percorso di tipo infiammatorio a livello del tratto urogenitale, la prostata famosa per essere chiari, ad esempio, che può avere un impatto molto negativo sulla capacità genitoriale. Gli spermatozoi saranno sicuramente meno vivi. 800 24 00 24. Andrea, noi parliamo sempre dell'età biologica della donna, dell'importanza di non rimandare troppo, perché la fertilità femminile è un po' no, a scadenza. Beh, ma anche quella maschile, certo. C'è un periodo d'oro? Certo, in primo luogo parliamo sempre di, l'hai detto bene, di fertilità della donna, perché parliamo troppo spesso, non voglio dire troppo, ma molto spesso di problematiche legate alla capacità riproduttiva della donna e del diventare madre, troppo poco, forse mai, e abbiamo detto prima, forse talvolta anche in modo sconsiderato, delle difficoltà di diventare padre. Esiste certamente un percorso di progressiva minor capacità riproduttiva degli uomini. Facciamo sempre riferimento al famoso attore Charlie Chaplin, che ebbe quel figlio in tardissima età. Questo è vero, ma non è sempre vero. I genitori che diventano tali in tarda età, prima di tutto fanno molto più fatica, ma diventano genitori con maggiore difficoltà, soprattutto se sono papà. L'età d'oro esiste, le prime decadi sono sicuramente le più importanti. Tenete conto che si fa sempre riferimento ai rischi di una maternità tardiva, ma ci sono rischi molto importanti anche di una paternità tardiva. Vorrei, Andrea, che tu li evidenziassi, perché andando avanti con gli anni anche il liquido seminale ha delle variazioni che possono esporre a dei rischi. I rischi che soprattutto le neuroscienze ci hanno insegnato a sottolineare. Esistono dati di scienza, non metropolitane, leggende o leggende metropolitane, detto all'italiana maniera, dove fondamentalmente si viene ad evidenziare il fatto che dopo i 35 anni ci sia un maggior rischio di figli con problematiche di autismo, di deficit neurocognitivo, di problematiche proprio legate alla sfera cognitiva. Il che non vuol dire che non si possano avere bambini dopo i 35 anni, ma non è sempre vero che avere un figliolo a 60 anni, a 50, 40, 20 o 30 sia la stessa cosa. I papanonni, perché c'è anche... Questo è un concetto ancora diverso. Sì, perché è un concetto secondo proprio... matrimonio, secondo unioni. Non solo, questo è un concetto squisitamente sociologico. Oggi si tende ad avere figli attorno ai 45 anni e si definiscono papanonni quelli che a 60... 60 anni avranno un figlio appena maggiorenne e sicuramente avranno molte più difficoltà nell'interpretare i segnali che un figlio di 18enne a 65 anni potrà dare loro. Pasquale ritiene di aver ovviato a tutte le questioni che noi poniamo questa mattina, lo dico naturalmente con il sorriso, con il pieno di rispetto di questa scelta che magari è stata inevitabile nella vita del nostro ascoltatore, perché ci racconta di essere diventato papà a 50-53 anni di due bei maschietti, lui dice il segreto, una moglie più giovane di me di 20 anni. Congratulazioni in primo luogo, ne siamo molto felici, purtroppo la verità vera non è sempre questa, perché l'abbiamo appena detto, primo, l'età che avanza è il primo fattore biologico importante di detrimento qualitativo del liquido seminale. In secondo luogo, non tutti i soggetti di 50 anni hanno una seconda moglie o una compagna di 20 anni meno di loro, e non è detto purtroppo che a questo corrisponda una fertilità per forza di cose. Tenete conto che la fisiologia ci dice che su 10 rapporti in coppie che poi sono fertili, 8 non vanno a buon fine, cioè 2 rapporti su 10 saranno capaci di promuovere una fecondazione. In termini fisiologici, in coppie, lo sottolineo, che avranno poi il loro figlio entro i 12 mesi, il che non vuol dire che avere una compagna giovane sia per forza di cose risolutive. 800 24 0024, andiamo ad Anna dalla provincia di Torino, ma vorrei poi dare tempo ad Andrea Salonia di farci le raccomandazioni. C'è uno stile di vita che può in qualche modo mettere a rischio la vostra fertilità, o al contrario, evitando il quale proteggerla. Anna, buongiorno, benvenuta dalla provincia di Torino. Buongiorno a voi. Senta, io ho fatto questa telefonata per chiedere un'informazione per mio figlio. Mio figlio, pronto? Sì, la sentiamo. Mio figlio ha fatto l'esame del liquido seminale. Sono risultati spermatozoi leggermente maggiori della media, ma molto lenti. Volevo chiedere, c'è qualche cura, c'è una possibilità di avere un figlio, non so, che cosa si può fare? Beh signora, fino a prova provata, laddove suo figlio non avesse tentato di avere rapporti con la finalità di diventare papà, nessuno per numero, motilità o forma degli spermatozoi alterati le potrà dire che suo figlio è infertile o subfertile, cioè con una ridotta capacità, perché appunto bisogna provare a... Il dato significativo però è che non ho idea di quale sia l'età di suo figlio. Quanti anni ha Anna suo figlio? Anna l'abbiamo persa. Anna aveva secondo me 30 tutti, anni. Ecco, ma perché per Anna aveva tutti, una voce giovane. Ecco, per sì, tutti, magari. È comunque molto utile che a fronte di un'alterazione del liquido seminale si vada da uno specialista del settore, sia questo urologo, endocrinologo, andrologo, perché una buona visita, un buon esame obiettivo possa ad esempio escludere la patologia più classica, il varicocele, la dilatazione delle vene sopra, soprattutto il testicolo di sinistra, che surriscalda, questa è la spiegazione più banale, il testicolo, e ne inficia le capacità di procreazione, cioè di produrre spermatozoi validi. Andrea, tu hai aperto un capitolone al varicocele, potremmo dedicare un'intera puntata, ma ecco, anche più di una, ci sono arrivate già dei messaggi. Il varicocele è un disturbo che mette molto ansia ai genitori per quando viene diagnosticato ai bambini piccoli, ma anche quando viene diagnosticato in età adulta, perché viene legato appunto al problema della infertilità. Sì. Quali sono i messaggi da dare? Soprattutto è bene arrivare a una diagnosi, non trascurare questo disturbo. È bene arrivare ad una diagnosi, tenete conto che la probabilità che una coppia che ha difficoltà riproduttive veda nel proprio partner maschile la presenza di un varicocele è di quasi 4 uomini su 10. Nella popolazione generale almeno 2 uomini su 10 hanno un varicocele, che non è una malattia acquisita, generalmente è una problematica, una alterazione anatomica congenita derivante dalle caratteristiche specifiche dei nostri vasi. In che cosa corrisponde? Corrisponde al fatto che il sangue dal testicolo di sinistra tenda a ritornare verso il cuore per essere purificato con maggiore lentezza. Questo porta a surriscaldare il testicolo e quant'altro. In che cosa si manifesta un varicocele? Molto infrequentemente nella comparsa di dolore. Dolore a livello dell'emiscroto di sinistra, proprio perché è più frequente il varicocele a sinistra. Molto più frequentemente in alterazione del liquido seminale, con delle caratteristiche alterazioni della forma degli spermatozoi, che hanno un capino, una testa un po' alterata, e più delle volte hanno minore capacità di muoversi. Come si fa a diagnosticare? Una visita, una esplorazione palpatoria dello scroto, ed è molto importante eseguire un Doppler, cioè una valutazione ecografica che ci dica in modo semplice, chiaro e non invasivo, cioè senza danni, qui c'è un varicocele di grado 1, 2 o 3, quindi meritevole o meno di essere trattato. C'è un'età in cui si manifesta di preferenza? Ovviamente i ragazzi che cominciano a manifestare un varicocele vengono intercettati dalla pubertà in avanti. È ovvio che un uomo di 50 anni difficilmente gioverà di una correzione che è sempre chirurgica del varicocele. Ancora una volta le linee guida di chi si occupa di medicina riproduttiva ci dicono: se una coppia avesse avuto una persistente alterazione del numero degli spermatozoi grave per almeno 2 anni, questa volta in presenza di un varicocele, mi riferisco alle linee guida della Società degli Urologi Europei, fondamentalmente il varicocele merita di essere corretto e la correzione è chirurgica. Allora, in chiusura, i consigli per, noi sul tema torneremo perché il tema è di grande interesse, consigli per preservare e tutelare la vostra fertilità, che è anche la nostra, perché assolutamente sì, anche se le settimane precedenti a questa hanno dimostrato che non è solo un orientamento eterosessuale che di avere un figliolo. Comunque una vita sana vuol dire mantenere un peso adeguato, avere attività fisica aerobica prevalentemente regolare, ridurre un eccesso di caffè, un eccesso di alcol, un eccesso di sostanze che abbiano a che fare con il poter danneggiare l'asse ormonale. In questo senso, marijuana, oppiacei in genere, tutte le sostanze che fanno parte della categoria degli anabolizzanti, cioè di quegli steroidi che abbiamo parlato di bellezza un mese fa, per rinforzare i muscoli, tutti quelli sono di grande, grande danno alla nostra capacità riproduttiva. Quindi attenzione per chi va in palestra e scolpisce il muscolo, non naturalmente, ma facendo delle sostanze proibite, perché gli anabolizzanti sono sostanze assolutamente proibite. Allora, Deborah, leggiamolo. No, sì, perché mi aveva colpito, dai. Perché la questione della dell'essere distratti da altro, Andrea, basta abolire la televisione, Facebook e quant'altro, stiamo dimenticando, scrive Luca da Modena, la condivisione, il contatto fisico nella coppia. E rimarco, cioè, leggo questo messaggio perché quello che diceva prima di coppie che si presentano senza avere molti rapporti, quasi nulli, e chiedono come mai hanno un problema nell'avere un figlio, mi ha colpito profondamente. Sì, e questo è vero, è quello che l'ascoltatore dice, è sicuramente vero. Il rischio è quello però di banalizzare quella che oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le società che si occupano di riproduzione considerano una malattia. L'essere infertili è una malattia, soprattutto al maschile. Va diagnosticata e nella maggior parte dei casi si può curare, non perdiamo le speranze. Anche perché il professor Salonia, Andrea per gli amici, torna. Grazie Andrea. A voi, grazie a voi. Molto Andrea. La nostra avventura, che è stata veramente un'avventura qui al Salone del Risparmio, è terminata. Nicoletta, torniamo l'anno prossimo. Volentieri. Benissimo, allora grazie a Davide Ciocia, Pietro Lacorte, Esotta Scenna che oggi è stata qui con noi, Marco Lombardo che è in studio a Milano, grazie al professor Salonia. A lunedì. Buona giornata. Arrivederci. Cuore e denari.